parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. C'erano persone che si vestivano da infermierina, sexy, non quelle che lavorano di solito nei posti, e altre che si vestivano da dottoresse. Facevano dei balli sensuali e, come ho detto, in questa serata ho visto proprio il ricordo della Minetti, che aveva questo vestito da suora che sollevava e poi se l'era anche tolto ed era rimasto in biancheria intima. C'era anche la Maristel, che io avevo visto in Maristel Polanco, sì, in quasi tutte le serate dove sono stata. Di Obama indossava una maschera con pantalone e camicia, di questa che chiamavano loro il da Boccassini, e indossava una parrucca rossa con un affare con, come quello lì? Un affare si chiama toga. Toga. E facevano dei balletti intorno, per dire, ballando con questo palo. Rubi Ruba Cuori oggi in tribunale, sentite come Rotondi, PDL, il mitico, il nostro amico Rotondi, spazza via la Boccassini. Boccassini ha parlato su una sfilza lì e poi dicono che noi diciamo le parolacce. Rotondi. La signora Boccassini ha aperto un'inchiesta e ha fatto 6 ore di arringa sulla base di un'emerita sfilza di puttanate che non sono dimostrate da nessuna parte. Gasparri e la Boccassini, almeno sappia l'italiano. A parte che io ho sentito pezzi di requisitoria in uno stentato italiano, con un uso improprio dei verbi, con la conclusione condanno. C'erano effettivamente dei termini strani. Ho capito, ma uno che fa quelle cose lì, che può decidere la vita del paese, almeno che sappia l'italiano, santo Dio, no? Che almeno sappia l'italiano, perché poi tu puoi decidere la vita. Beh, anche in Parlamento, insomma, non è che, no, Parenzo, non è che in Parlamento ci sia l'Accademia della Crusca. Appunto, lei, signor Cruciani, dimostra anche in questa introduzione di essere di una furbizia orientale quasi. Perché, lei. Scusa? Lei è di una furbizia orientale sapientissima, perché ha messo questa carrellata di voci, di fuoco di fila dei signori del centrodestra che sparano sul processo. Ma che c'è? Quindi lei di... Sì, sì, sì, questo lei ha fatto. Senti, fammi sentire Giuliano Ferrara, possibile che ci occupiamo del pisello di Berlusconi invece di dire stupidaggine. Ci rendiamo conto del fatto che nel mondo c'è anche gente che si domanda: ma è possibile che stiamo ancora a discutere del pene di Berlusconi? Allora, Sergio Bellavita. Del pisello di Berlusconi, ma è una vergogna nazionale! Santanché Travaglio, la confessione, ma in realtà non è una confessione, è un gioco della Santanché che confessa, tra virgolette, sono lesbica. Sì. Ma lei se l'è presa perché la Boccassini le ha chiamate prostitute, ma lei come le chiama? Quelle che vanno a letto con uno e escono con 2500 euro in una busta, scusi. Ma quelle che vengono con lei, io come le chiamo? Chiamiamole passeggiatrici, chiamiamole lucciole. chiamiamo le mondane. Ma quel mestiere lì fanno, non ce n'è un altro nome. Ma allora io le ma dico, il processo, scusi, io sono lesbica, purtroppo. Le posso fare una confessione? Oh, ma no, non ci crediamo! Non no. ci possiamo credere! Allora, qui non si aiuto. Dicono bugie così no. plateali! Allora scusi, siccome mi dissocio. Io... Scusi, Santoro, allora, no! Io sto cercando... Cioè, essere lesbica è una cosa allora, seria, sto cercando no? di farvi no. capire no. come funziona un processo. Allora. Poi spiega perché, eh! Allora scusi, vi se do si una fa notizia, un processo. Io mantengo due donne che non lavorano per me, che sono in difficoltà e tutti i mesi gli pago l'equivalente di uno Marco, stipendio. Andiamo avanti. Che cosa sono? Guarda, e sono giovani donne. Le mie sono giovani donne, vengono a mangiare a casa mia. Sono le frequento la sera. Che cosa sono Onorevole io? Santanchè ha fatto un appello alla libertà, le ricordo no, questo. Appunto, eh. La libertà è allora, quindi io siamo posso alla mantenere, libertà di tutti. Io posso pagare due donne che vengono a casa mia che sono in la difficoltà. Paragone un po' ardito da parte della signora Santanchè. Siccome io mantengo delle donne, allora per questo sono lesbica. Cioè se date del puttaniere a Berlusconi, in sostanza, se date a Berlusconi del mantenitore di prostitute, allora io che mantengo due ragazze, perché non posso ditemi essere chiamata lesbica? Ferma, fermo là, fermo, c'è tempo per discutere. Un'ultima ma cosa posso dire semplicemente no, che non puoi dire nulla, non puoi dire nulla. La prima non cosa che devi dire no, niente. Non devi dire nulla perché abbiamo già un ospite. La prima ti voglio far ascoltare un'altra cosa che è Grillo su Cabobo. Allora, sì, mamma, che schifo. Non c'è un paese in Europa o al mondo che c'è uno con un piccone sta lì delle ore e non succede niente, ammazza tre persone ed è un clandestino. E allora se parli dei clandestini, la sinistra ti dice subito che sei un razzista. Non si siede a un tavolo e ti dice, ma come cazzo è che c'è un clandestino qua? Vai un po' negli Stati Uniti a fare il clandestino negli Stati Uniti. Tu sarai sorpreso, ma io dico che Grillo ha ragione al 200%. La pensa 200... come te, per forza. Certo che la pensa come me. Infatti io sto dicendo che io la penso come Grillo, non Grillo la pensa come me. Fermi no, tutti. Ma non mi stupi, ma non mi ma stupi. Stai vabbè, tranquillo, infatti... abbiamo due ore e mezza. Devi stare tranquillo, bene, calmo, bene, calmo, come dice Prodi. Vabbè. Calmo, calmo, calmo. Con calma. 800240024, è con noi Giovanni Minoli, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Benissimo, grazie. Ma come si sta da, come dire... pensionato Rai. Come si vive questa cosa? Quando si entra in pensione innanzitutto? Quando? A che giorno esattamente? Chi? No, lei, cioè da quando finisce il rapporto è già in pensione. Io già sono in pensione da tre anni. Esatto, ma quando è che esce dagli uffici della Rai materialmente? Quando finisce il contratto, il 31 maggio. 31 maggio, eh? Un grande dispiacere, eh? O no? O non gliene frega niente? No, io faccio il mio lavoro con grande amore e grande passione. Sì. Faccio la storia siamo noi, l'avrei continuata a fare volentieri. Non è più interessante per la Rai, vabbè. Ma dicono che dire, continua, Gubitosi vuol dire dice. Che me ne... No, per adesso è finita, perché nei palinsesti non esiste, quindi è una bugia dire che continua. Ma qualcuno potrebbe... La potranno rimettere nei prossimi mesi con un altro consiglio di amministrazione che l'approverà, non so, ma per adesso è una bugia. A lei pare improbabile che possa continuare? Si può dire al massimo che continuerà, non che continua. Senta, ma è concepibile una storia siamo noi senza Giovanni Minoli? Adesso lo dico al di là... Ma non lo so. Cioè, secondo come lei? Secondo come lei? Concepibile Porta a Porta senza Vespa o Quark senza Piero Angela o Ballarò senza Floris. Floris. Cioè inconcepibile secondo lei? Ho fatto degli esempi, è tutto concepibile. Sentirà qualcosa detto, cioè, anch'io penso che la Zanzara senza di noi sia una follia, dopodiché fra 12 anni vediamo. Che se 12 anni no, magari prima, che ne sa. No, però ma voglio dire, il vantaggio della storia è che dura sempre. Sì, no, è vero, è vero, ma voglio dire, dovrebbero cambiare nome secondo lei? Se volessero continuare, ma dovrebbero cambiare nome? Quando hanno chiuso Mixer dopo 20 anni non hanno più chiamato, non hanno più fatto Mixer. Appunto, dico, la hanno fatto altri problemi, ma insomma, ci basta un po' di fantasia, non è necessario usare per forza. Poi allora, diciamola tutta, la storia senza... Facciano come vogliono. La storia siamo noi, senza Minoli non si può fare. Cioè, non no. si... cioè formalmente che si può fare, però sarebbe tutto un errore. Si può fare. Certo. Non lo so, sono scelte editoriali, chi spende soldi per comprare il matrimonio della Marini e chiude... e chiude La Storia Siamo Noi e ha una linea editoriale che gli può consentire tutto. Vabbè, la linea editoriale non è che sia quella del Matrimonio della Marina al posto della Storia Siamo Noi, è una battuta anche carina, bellissima. Vabbè, però vabbè, non lo so se è bella, è un fatto. No, è vero. Quanto hanno speso per il Matrimonio della Marina? Non ho idea. Che ne so, una cifra non, più o meno? Non lo so. Non tanto, lo so, troppo? Non lo so. Non qualsiasi lo so. Cosa che abbiano speso è stata comunque un errore? Insomma, mi sembra una scelta editoriale interessante da valutare. Senta, ma secondo lei Gubitosi sa di televisione? No. No, zero. No, direi zero. No, zero non lo so. Ho l'impressione che, insomma, la televisione è una cosa complicata. Ah, non c'è dubbio. Quindi lui sa di numeri, sono anche importanti i numeri. Ma si fa consigliare da qualcuno? La televisione, cioè l'editoriale, è un altro mestiere. Vedo che assume solo dirigenti del corporate e nessuno nell'editoriale. Io avrei capito prima che è necessario, come dire, avere persone che pensano e progettano e fanno programmi, prima di tutto, perché quello è il core business. Credo sì. Che gli italiani giudicano la televisione per quello che vedono, non per i numeri che ci sono dietro. Ma se pensa che, se lei tante volte si è parlato di Giovanni Minoli in tanti posti in realtà, però si è anche pensato a Giovanni Minoli, qualcuno sicuramente ci ha pensato come direttore generale, al posto di Gubitosi lei farebbe meglio dal punto di vista editoriale? Le cose bisogna farle per saper dire, per poter essere giudicati. Lei pensa di poter fare meglio di Gubitosi dal punto di vista televisivo? Io penso di avere delle idee sulla televisione. E invece Gubitosi non ce le ha? Ma se no, passo... non lo so, non le ho ancora viste, vedo che fa piani, vedo che fa piani industriali, ma non ho ancora visto piani editoriali. Penso che in genere bisogna fare prima il piano editoriale, cioè dire cosa si vuol fare e poi dire con che mezzi si fa. Perché c'è Porro al posto, era lei uno dei candidati là, invece no, hanno scelto, no, per un periodo è stato candidato a fare quello. Io a me mi candidano tutto, non sono quello io che mi candido. Vabbè, anche lei un po' si candida, ma non mi male mai... candidarsi. No, ma non è vero, io mi sono solo candidato a fare il presidente della Rai quando si candidavano, sì, Freccero, sì, che sembrava che bisognasse mandare il curriculum. Invece allora, era tutta una buffonata. Mi sembrava una buona scelta, una buona possibilità. Eccoci, 800 24 00 24. Questa sera La Zanzara inizia da una persona che per anni è stata una delle colonne della televisione pubblica italiana, in generale della televisione italiana, caro Parenzo, Giovanni Minoli, che dal 30 maggio finisce il suo contratto con la Rai, con varie polemiche, come abbiamo sentito, soprattutto sulla questione dei pensionati. No, io non ho fatto nessuna polemica. Ma no, non sua, io in generale. Ho subito una decisione, punto, fine. Vabbè, insomma, ha avuto qualcosa da ridire su questa decisione, mi sembra, oggi, da un'intervista, no, da varie cose, no, o no? Cosa ho detto? Beh, insomma, sui pensionati, che non si dicono bugie. Chi le dice? Il direttore generale? Beh, in questo caso l'ha detto, perché bastava dire non voglio più Minoli perché non mi piace. Questo è vero, ma è così, la verità è questa? Non lo so, però dire non ci sono i pensionati, non lavorano, allora dico vabbè, Vespa, Augas, coso... Quark, sì. Bisogna mantenere Donna Cattenga. Magari lei costa troppo. No, io non costo troppo, non abbiamo trattato, non mi hanno fatto nessuna proposta e io non ho fatto nessuna richiesta. Sarebbe rimasto anche gratis, no, ovviamente. No, io ho proposto di lavorare il mese di giugno a un euro. Sì, quello l'ho letto, sì. Chiudiamo il ciclo, allora... Qualcuno ha detto che lei ha chiesto un milione, querelata la signora Perina? Quella signora sarà debitamente querelata, perché non, dato che io non ho chiesto niente, né nessuno mi ha offerto niente, è una fantasia... Vespa dice che lei ha un complesso nei suoi confronti. Io? Sì, Vespa, leggo oggi sul Fatto Quotidiano. Un complesso nei suoi confronti? No, non ho complesso nei confronti di quasi nessuno. No, perché evidentemente perché si è sentito chiamato in causa come pensionato. No, non è colpa mia, se è in pensione anche lui, quindi... Cioè, Parenzo, che c'è? Non ci posso no, niente. Voglio dire, capisco. Sono fatti, i fatti sono fatti. Ma lei è classe 45 e vuole ancora lavorare? Sì, ovviamente, mica non è un riproprio. Io lavorerò, vedo che Napolitano è andato molto avanti, quindi chissà. No, ma è giusto, se uno vuole lavorare, per carità, non è che... C'è un esempio ai massimi livelli, luminoso. Parenzo, che c'è? Dimmi. Beh, potrebbe candidarsi magari alle prossime elezioni, anche lui. La presidenza della Repubblica. No, quello no, il Parlamento. No. Perché il Parlamento non si no, può... io faccio la televisione, non faccio il parlamentare. Beh, sa, le due cose spesso... Beh, ormai c'è una confusione abbastanza no, evidente. Non nella mia testa, non ho mai... ognuno può fare quello che vuole, ma io ho sempre pensato che fare il proprio mestiere e basta è meglio. Ma è vero che l'hanno offerto di fare l'autore per Rai Storia, una specie di umiliazione? A me non mi ha offerto niente nessuno. Dunque, falsa pure questa notizia. Sui giornali si leggono un sacco di cazzate però ogni tanto. Ma non credo che sia una novità. Lo sai, mi è venuto in mente un paragone. Minoli è un super stupido, ovviamente è un super tifoso della Juventus, pare. Tu queste cose non le sai. Si può dire, Minoli, che lei che va via dalla Rai, anche se poi è in pensione da un po' di tempo, che ne so, è come come Del Piero che va a giocare in Australia, ecco, esatto, sì, sì. No, veramente stamattina io ho fatto un paragone diverso, cioè? Ho fatto una metafora con Pirlo, che per non rinnovargli il contratto il Milan l'ha lasciato andare, è venuto da noi e ci ha fatto vincere due scudetti, quindi chissà quale sarà la mia Juventus futura. Questo per la modestia di Minoli, ovviamente, che si è paragonato a Pirlo, tanto per chiarire, ma a me piacciono le persone immodeste, non mi piacciono le persone modeste. Pirlo, cioè, come dire, ognuno nel suo genere, nel mio genere io mi sento uno che insomma come ha fatto delle cose non banali. Si sente Pirlo, nella televisione? Non mi sento non banale. Vai, Pirlo, sì, mi sento un Pirlo. Pirlo. Avrei preferirei Del Piero allora. Allora Del Piero, come Del Piero che va? Oppure preferirei Maradona, cioè, voglio dire. Vabbè, allora, è come Del Piero che va in Australia? No, è come... sono come Pirlo che va alla Juventus, dal Milan va alla Juventus. Parenzo, che vuoi dire? No, comunque, siccome mi pare di capire che la cosa di oggi è... Non ti voglio mettere in imbarazzo, eh? Ma io non sono imbarazzo di nulla, dai, non mettiamolo in difficoltà. No, ma sennò poi poi magari ti scappa qualcosa su Gubitosi, poi succede un casino. No, Gubitosi fa il manager, è come dire sì, però non fare nemmeno il lecchino adesso, che devi fare. Ma io cioè non passare all'eccesso, insomma. Se non mi hai fatto ancora finire la frase, è impossibile. Ma stavi partendo male. Lo sento preoccupato della frase, della rotondità della frase. Non sono preoccupato di un cazzo, per parlare chiaro, voglio dire. Però è come dire, dice Marchionne è un manager che non ha mai fatto macchine perché è laureato in filosofia, dice, quindi non si intende di macchine. Vuoi difendere Gubitosi? Vabbè, ho capito. Abbiamo capito. Vuole difendere Gubitosi. Allora, ma vale in generale per qualsiasi manager, non bisognerebbe mai di dire. Era la Piombo. Scusami, io il ragionamento che Gubitosi, è Minoli, io ho detto che Gubitosi ha detto una bugia. Ok, benissimo. Basta. Poi hai anche detto che non si intende di televisione, ma alla Rai è come avere, che ne allora so, posso dire una cosa? Io nelle 5-6 volte che ho parlato con lui, sono quelle le volte che l'ho incontrato, non sono mai stato colpito specialmente quando parlavamo di televisione delle sue opinioni. Perché non insomma, ne sa, dici, perché non ne sa, no, non se ne intende. Non lo so, può darsi che non aveva voglia di dirle a me. Prima ti ho chiesto, adesso vuol dire, fai il giornalista come me, con un po' più di anni e di esperienza. Hai detto, sa di televisione? Risposta no. Significa che non lo sa. Credo no, poco. Ma è come tipo, che ne so, un idraulico che fa il professore, che vuole fare il professore universitario? Ma non lo so, adesso gli esempi ognuno si fa i suoi nella sua fantasia. Io ho queste fantasie, per fortuna. Ah, bella questa fantasia. Vabbè, però non male però è come un idraulico che vuole fare il professore universitario, per quello che riguarda la televisione. Alla Rai sono venuti tante persone che, cioè, questa idea che in tutto il mondo i grandi network televisivi allevano all'interno la stragrande maggioranza dei loro manager, perché la televisione è anche, se vogliamo, una invece nuova. La Rai c'ha la fissazione di pigliare esterni ogni tanto? Vengono ogni tanto, mi sembra che sono molti, sono dai professori in poi, una ventina d'anni che sono sempre esterni. Ci sono più o meno esterni. Ma a Mediaset andresti a lavorare? Adesso che sei libero dal 30 maggio, a Mediaset andresti a lavorare? Io adesso finisco di lavorare alla Rai il 30 maggio. Sì. E poi mi guardo intorno e vediamo. Ma domanda, a Mediaset ci andresti o no? Ma io sono disponibile a andare dove si possono fare dei progetti, realizzare dei progetti che mi piacciono. Tanti soldi ormai non sono un problema. Quando? Dove? Perché? No, dico, per te, cioè, anche non è che devi guadagnare ormai cifre pazzesche, no? Non so, cioè, uno insomma è sempre disponibile. Ti stavo facilitando le trattative future. Sei molto gentile, ma insomma più o meno me la cavo nelle trattative. Va bene, non è che fai causa alla Rai, no? Come tanti vogliono fare, che ne so. Ma io non posso fare causa. Che ne so, titolo del programma. Non ho nessuna intenzione, il titolo del programma è della Rai, quindi non. Bene, la storia siamo noi. Credo di averlo valorizzato abbastanza. Un po' mi dispiace, lo sai quando lo vedevo? Dopo Agorà la mattina. Vabbè, niente, cazzi miei. Pazienza, vabbè, vedrai un'altra cosa. Ciao Giovanni, ciao. La gente sente che vi divertite come pazzi a fare quello che fate in radio e pensa, questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Come Berlusconi a Brescia, che è fantastico. E si vedeva la situazione del paese, era quel pubblico lì, con gli anziani come me davanti, che guardavano questo ottantenne gonfio che sembra un cofano di una Volkswagen, che parlava, che dava questo attacco nei giudici, ancora con l'attacco nei giudici, e questi anziani che diceva, questo anziano che ridà l'IMU, che te lo ridà anche quello che hai preso, te lo ridà indietro, che ci mette un set di pentole e anche le federe. Ebbene, e siamo nella giornata in cui Berlusconi si attribuisce ovviamente il merito di una cosa che non esiste in realtà, perché si tratta della sospensione del pagamento della rata dell'IMU. Poi se si fa la riforma entro agosto, bene, poi bisogna vedere quale si paga. E poi bisogna vedere quale riforma, perché può darsi pure che con la riforma si paga lo stesso, bisogna vedere come, quando e perché. Dunque siamo ovviamente all'ennesima buffonata, all'ennesima incertezza. Cioè, siccome non sanno che fare, quanti soldi ci vogliono, esatto, cosa decidere definitivamente sull'IMU, per non parlare della questione del rimborso su cui ancora qualcuno insiste nel PDL, siccome non sanno che fare, intanto sospendono perché dobbiamo fare la riforma. Ci pigliano per il culo. Ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato, e da sempre ci ho provato, ti ho inseguita, ti ho inseguita. Dalla sera alla mattina vinceremo lo stesso, anche senza il vostro contributo. Va bene? Ve lo metto per iscritto. E li mandiamo a casa tutti. Li mandiamo a casa tutti. Li mandiamo a casa tutti. Li mandiamo a casa tutti. Basta. No, perché mi stanno riprendendo e mi faranno vedere al TG1. Eccolo, li mandiamo a casa tutti. Ecco, la protesta e non c'è la proposta. Che vigliacchi, che vigliacchi. Sono vigliacchi falsi di una falsità. Però è un po' un disco rotto da questo punto di vista, Grillo, eh? Ripete sempre la stessa cosa, li mandiamo a casa tutti, mi fanno vedere sempre con la faccia cattiva, mi fanno vedere solamente quando dico che voglio mandare a casa tutti, eccetera, eccetera. Come comico è sempre eccezionale. Per esempio, se c'era Rodotà, qui non è un pezzo comico, in realtà se c'era Rodotà, Berlusconi sarebbe andato in galera. Qual è il legame? Non lo so, forse si sarebbe discusso un po' più velocemente di conflitto di interessi, ineleggibilità, probabilmente. E perché non l'hanno votato secondo te Rodotà? Gliel'abbiamo messo lì. No, ma non è per questo, perché Rodotà metteva in galera Berlusconi. Lo metteva, ma non vogliono farlo andare in galera, hai capito? Ecco, Rodotà che mette in galera Berlusconi, non ce lo vedo, non ce lo vedo. Non ha chiaro, ma in Germania lo fanno. Ma come fanno? Che fanno in Germania? Un farabutto, un nero maledetto, la mette in galera. Vabbè, non si sente un cazzo, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Consiglio dei ministri, 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga, rinvio dell'IMU al 16 settembre in attesa della riforma entro agosto, escluse dallo stop le case di lusso. Berlusconi, il rinvio dell'IMU è il nostro primo successo, il PD deve fare i conti con il nostro programma. La Lega scettica, è un pesce d'aprile. Il Porcellum va cambiato, dice la Cassazione, che rinvia gli atti alla Consulta. Incostituzionali il premio di maggioranza e le liste bloccate. I PM di Palermo citano il Presidente della Repubblica Napolitano, il Presidente del Senato Grasso e l'ex Capo di Stato Ciampi come testimoni al processo sulla trattativa Stato-Mafia. Ricordo la Minetti vestita da suora sexy, Berlusconi mi dava buste con soldi. Rubi, testi al processo a carico di Fede Mora e Minetti, racconta le notti di Arcore. Intollerabili le aggressioni agli omosessuali, le parole di Napolitano nella giornata contro l'omofobia. Al TG3 la storia di Giulio, studente liceale, colpito perché gay. E colpo grosso al Festival di Cannes, rubati da un albergo gioielli per $1 milione, erano destinati alle passerelle delle attrici sul red carpet. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Cos'è che fanno in Germania? Non ho capito. In Germania lo fanno. Ma cosa? in Germania se c'è un nano maledetto, un killer, la Merkel lo arresta, è normale. Ma no, ma scusi, è normale, non funziona così. Il poliziotto gira per la città, per le strasse, si chiamano strasse in Germania. Beh, e lo fanno sì. Lì, è normale che solo in Italia non fanno un cazzo, c'è il nano, la corruzione. Ma la Merkel è un poliziotto, lo vedete, ma è normale che in tutte le democrazie è così, in Germania lo fanno. Ernesto da Roma, buonasera. Pronto, buonasera Cruciani. Dica. Senta, oggi è il giorno contro l'omofobia. Sì, così dicono. E io sono dicono. Contrario a tutte le violenze, sia omo che eterosessuale. Vabbè, è questo anche meno male. Anche con gli animali come voi. Sì. Però a due giornalisti del cazzeggio radiofonico come voi due, sì. Secondo me siete come minimo anche bisex, sì. Io volevo fare una preghiera, una supplica. Sì. Io mi commuovo davanti al pancione di una donna incinta per il grande miracolo che la natura ci offre ogni volta che queste donne rimangono. Vabbè, incinte. Allora? E allora dico che bisogna finirla con questo buonismo mondiale con gli omosessuali. È uno schifo, andiamo verso l'estinzione della specie. Sì, infatti, sono tutti froci ormai, Ernesto. E appunto, ma le pare possibile, per carità. Ma bisogna ricoverarli. Ricoverarli subito, poterarli. in galera, perché no? No, in galera no, ma curarli no, amorevolmente. Curarli amorevolmente, benissimo. Per poterli riportare a un'eterosessualità, se è possibile. Se non è possibile. E se non è possibile, ma che facciamo? Perdere. Li sopprimiamo? Il matrimonio. Ma quale matrimonio? Ma quale adozione? Ma quali diritti civili? La vogliamo finire? Non abbiamo risorse, diamo queste risorse a chi ci assicura la continuazione della specie. Siete dei cretini. La continuazione della specie, sì. Sì, così andando avanti, fra 100 anni finisce la razza umana perché saranno tutti gay che non possono procreare. Sì. La volete smettere? No, ignoranti. Parenzo. Siete degli ignoranti. Parenzo. La volete smettere? Parenzo, ti prego. Davide, sì. ti prego. Dobbiamo, sì, ha perfettamente ragione, è vero. Evviva i froci! Ernesto, questo. Dove sei? Io sto a Roma, dove sono? Ma sei malato di mente, tu ma sei no, da... ma è legato al letto, dai. Ah, è legato al letto, vero. Io sono molto malato di mente, però vi assicuro che questa cosa che ho detto è una profezia, ricordatevene fra 100 anni. Sì, sì, ma ha ragione, è vero. Ricordate, saremo... se sarà la razza umana andrà in estinzione. Infermiera, passi un attimo alla corsia. Passi un attimo in corsia, stanza 25. Tranquillo. C'è un signore legato che sta dando segnali di. Gli hanno messo, ti spiego, gli hanno messo il telefono. Lui ha le mani anche legate. Sì. Ha cominciato a urlare: devo chiamare Radio 24. È arrivata l'infermiera, va bene, d'accordo, se si rilassi, no, devo chiamare Radio 24, allora l'infermiera ha fatto il numero, però lui ha le mani e i piedi legati, sì. Gli hanno messo il telefono vicino e gli hanno detto, va bene, adesso 3 minuti puoi dire la tua cosa, adesso arrivano, gli portano via il telefono, gli cambiano il catetere e lo sedono, è sotto controllo. È sotto controllo, Ernesto, la situazione com'è? Fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, non c'è. Siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, delle adozioni, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. Io adesso vi saluto perché c'ho un po' da fare. Questo lo sappiamo, Ernesto. Lei è impegnato con gli infermieri. Io voglio bene anche agli omosessuali, però secondo me vanno aiutati, nel senso che se si possono riportare fuori dalla devianza. È simpatico però questo Ernesto, Parenzo. Non ma è... pure voi, io vi ascolto no, da anni, detto... ma io sono convinto che voi siete due froci, però non fa niente, sì. mica vi voglio male, mi siete simpatici. Sì. No, va bene. Prima ha detto bisessuale, adesso siamo passati direttamente a froci. Come minimo bisessuali. No, ma però vedi, ha ragione. Io mi assale. Qual è il dubbio? Che siate proprio froci. Ah, è così, eh. Va bene, borsa. Però potete fare molto perché siete molto ascoltati. Se una trasmissione popolare come la vostra, due giornalisti del cazzetto. Ma lei come lo voi... farebbe l'appello? L'appello, come lo farebbe? Per favore, pensiamo a preservare la specie umana. Curiamo gli omosessuali, mettiamole nelle cliniche per vedere di riportarli all'eterosessualità, ma le risorse che abbiamo non le sprechiamo in matrimoni omosessuali, adozioni omosessuali, diritti civili, abbiamo pochi soldi soprattutto in Europa e dobbiamo destinarli a preservare la specie e anche a salvare gli omosessuali dall'omofobia e cercare di riportare. Vabbè, troppo lungo. Comunque la prima parte la mandiamo al Ministero delle Pari Opportunità, e vediamo cosa esce fuori. Difendi i diritti umani, ascolta Giuseppe Cruciani. Andiamo a preservare la specie umana, curiamo gli omosessuali per vedere di riportarli all'eterosessualità, abbiamo pochi soldi soprattutto in Europa e dobbiamo destinarli a preservare la specie. Ernesto da Roma, un vero mito assoluto. Parenzo, è un mito, dai, diciamo la verità, è un mito assoluto. Ma c'è ancora il giallo della Santanchè. Ma davvero è lesbica? In omaggio lo stregone Rasputin. Sì, c'è in omaggio la. Ma lei se l'è presa perché la Boccassini le ha chiamate prostitute. Ma lei come le chiama? Quelle che vanno a letto con uno e escono con 2500 euro in una busta, scusi. Ma quelle che vengono con lei, io come le chiamo? Chiamiamole passeggiatrici, chiamiamole lucciole, chiamiamole mondane. Ma quel mestiere lì fanno, non ce n'è un altro nome. Allora io le ma dico, il processo, io sono lesbica, purtroppo. Le posso fare una confessione? Oh, ma no, non ci crediamo! Non ci possiamo credere! Allora, qui non si dicono bugie così plateate! Allora scusi, siccome mi dissocio. Scusi, Santoro, allora, no! Io sto cercando. Essere lesbica è una cosa allora, seria, sto cercando no? Di farlo no. Capire come funziona un processo. Allora, sul bulbo c'è la statua del cavallo di Zabov. Sì, c'è l'impronta della scarpa di Khrushchev. Sì, c'è la voglia rossa e blu di Gorbachev. Ieri sera a servizio pubblico, tra l'altro, c'era un'indemoniata, una di quelle che era andata a manifestare a Brescia contro il PDL. Sentitela, sentitela con grande attenzione. Santi, ce le ha date quelle bandiere? Sì. Ce le avete date voi, sa? Siamo venuti a prenderle in piazza Duomo e gli organizzatori distribuivano le bandiere per fare massa, per fare volume. E vi abbiamo detto anche bruciatele, vero? Vi abbiamo detto bruciatele! No, ne abbiamo fatto un uso lecito! Ne abbiamo fatto l'uso per noi più lecito. Bruciarle. In quel momento bruciare la bandiera significava dare sfogo a 30 anni di frustrazioni. Io non so se lei ha notato la rabbia. Perché voi non manifestate, scusi, il diritto di manifestare sancito dalla nostra Costituzione. Certo. Suona con maestria l'arpa. Beh, da un certo punto di vista questa Silvia è stata anche sincera. 30 anni di frustrazioni. Ecco, semplicemente una persona frustrata, una che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera, va in piazza a bruciare una bandiera del PDL o del PD. Dio, quella che è, cioè una che non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera ed è frustrata, ha delle rabbie represse o qualcos'altro nella vita che non torna, che non gira. Sì. Senza dubbio, ricordano quelle scene agghiaccianti che si vedono nei paesi in cui c'è un regime che sta crollando, no? Ma è troppa nobiltà, stai ammantando di nobiltà qualcosa no, che non è nobile. Che è una schifezza. No, ma no, io non perché non passi il messaggio che condivido che si brucia no, la bandiera, no, ma senti questa tutt'altro. Cosa di questa Silvia, senti un altro passaggio. Tutt'altro. Io ho 27 anni e sono cresciuta con Mediaset e Berlusconi. Ho sempre avuto questo modello politico improntato sulla volgarità, sull'immoralità. Ma non accetto nel modo più assoluto e categorico che questa gente si prenda gioco di me. Ma di che sta parlando questa qua? Ma di che parla? Ma di cosa parla? Non accetto che questa gente si prenda a gioco di me. Ma chi? Come? Quando? Perché? Poi sono cresciuta con Mediaset. Ma non è che c'è solo Mediaset, simbolo della volgarità. Ma vai a fare in culo. Ivan da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, senta, volevo dire delle cose a Parenzo. Non so se forse è di apposta per contraddire, per fare il bastian contrario, per dire il contrario di quello che è, non so, è così lampante. Lei qualche sera fa, secondo me, dice una cosa. Secondo lei è lampante. Come? Secondo il suo punto di vista è lampante, poi invece certo, ci sono delle il dottor Cruciani qualche sera fa disse sì. Che quel tizio a Roma anziché sparare al carabiniere, visto che era così disperato, forse avrebbe fatto meglio a sparare su se stesso. La pensa così tutta Italia, caro Parenzo. E chi se ne frega? E le dico, mi perdoni. E chi se ne frega? Io devo mica esprimere il parere di tutta Italia. Suo figlio o suo padre, come la penserebbe? Ma non dica, guardi, sono esempi aberranti. Quando uno ti rendano la propria famiglia, è disperato che si spari lui, ma perché deve fare sono esempi aberranti, è come quando dicono "Ah, se avesse fosse accaduto a lei", ma la barbarie, lo stato di diritto serve a questo per combattere la barbarie. È chiaro che se fosse capitato a me, l'istinto naturale delle persone è quella roba là. È evidentemente normale, hai altre due cose veloci per cortesia. Ma è bestiale dirlo, è bestiale dirlo, lei è una bestia, perché lo stato di diritto invece serve esattamente a questo. Ma lei è un rompipalle, come l'ha detto quella signora l'altra sera, lei è ignorante. Ma lei è una bestia, è un paragone bestiale che lei fa. Scusi Ivan, ma lei che cosa farebbe con Cabobo adesso? Adesso cosa farebbe col signor Cabobo? Le sto dicendo, io abito esattamente a 100 metri a Milano, allora... da piazza Belloveso, e sabato mattina sono uscito di casa alle 3 per andare a lavorare. Sono tornato alle 5:15, io faccio l'autista, autonoleggio con conducente, se me lo fossi trovato in mezzo alla strada col piccone insanguinato in mano, io avrei accelerato, l'avrei steso, poi avrei detto, mi sono spaventato. Ma no, è spaventato, lei dovrebbe assumersi le sue responsabilità e dire no, se io vedo uno in mezzo alla strada, a parte come fa a sapere che quello ha ammazzato delle persone, scusi. Beh, ma se vedessi un cadavere per terra, come diceva l'avvocato Longo l'altra sera, vedo che questo ha ammazzato una persona e sta andando in giro con un piccone insanguinato, ma cos'ha da dire Parenzo? Ma va bene quello da dire che gli spari, io purtroppo non ho un porto d'armi, ma a Parenzo dico, e se lui avesse assistito a quella scena e quel signore che è morto, che faceva beneficenza qui a Milano a Niguarda, fosse stato suo padre, oppure il ragazzo che andava a consegnare i giornali fosse stato suo figlio, come l'avrebbe pensato? Vabbè, lasciamo perdere gli esempi dei figli che non c'entrano niente. Scusi, ma che modo di ragionare è? Arrivederci, Emanuele da Ragusa. Buonasera, Emanuele, dica. Cruciari, lei è una testa di cazzo. Benissimo. Ma lei ci pensa che effettivamente noi paghiamo anche per ascoltare lei in radio? Cioè, no, lei non paga nulla, per fortuna, no, stia tranquillo, stia calmo. Lei non paga niente, non dica stupidaggini. No, lei non paga nulla, non si preoccupi, noi non prendiamo un euro di soldi pubblici, non ci rompa le scatole. Ma di che sta parlando? Parli di qualcosa di concreto invece di insultare, parli di qualcosa di concreto. Ma certo, parlo di quanto sia cretino, sì, vabbè, inutile per la specie. Va bene. In Italia? Sì, sì. Poi? No, no, è vero, è un frustrato di merda. Sì, benissimo. Emanuele, quando ha smesso di insultare senza nemmeno arrivederci. Beh, bravo, si è sfogato finalmente da Ragusa, si è sfogato. Arrivederci. Si è sfogato? Si è sfogato? Sì, mi sono sfogato. Adesso che fa? Va a parlare con gli amici, ho detto ho chiamato Radio 24 e ho insultato Cruciani, va a parlare con i suoi amichetti là a Ragusa. Va a parlare. Bello, si è divertito. Sì, si è divertito a prendere il telefono e insultarlo. Bravo, sì, bravo, sì, povero imbecille, tantissimo. Bravo. Restiamo in Sicilia, Tony da Agrigento. Cruciani, buonasera. Come sta? Allora, io telefono fondamentalmente per prendere le difese di Parenzo. Sì. Perché non si può infierire sulla Croce Rossa. Parenzo dimostra continuamente di essere diversamente intelligente. Cioè? E in quanto tale non si può dargli addosso ogni sera così. Certo. Lui, poverino, non ce la fa a sviluppare certi concetti, a capire certi meccanismi che tutti noi normali, pensanti, sentiamo il ragionamento suo normale, sentiamo, qual è il ragionamento suo normale? Tu sei un diversamente intelligente. Sentiamo il tuo ragionamento intelligente, ma sei un tuo mondo di gay frustrato comunista, sì. E quindi com'è gay frustrato, gay frustrato comunista, ma vi siete messi d'accordo recentemente negli ultimi 15 giorni? Chiamate tutti insieme? Tutti gli imbecilli chiamano insieme? Cioè, negli ultimi 15 giorni. E lui a dimostrare questo, non so mica io traggo solo le conclusioni. Un attimo solo, Tony, resti lì perché voglio approfondire il com'è gay, eccetera, eccetera. Zanza, zanza, zanza. Ma abbiamo un grande ritorno qui alla Zanzara, caro Parenzo, una persona con cui abbiamo avuto diverse diatribe nel passato, ma che volentieri riospitiamo nel nostro caravanserraglio il senatore Roberto Formigoni. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come sta? Come sta? Bene, bene, voi? Beh, successo in successo, passate. Ci ha portato fortuna la sua assenza. Vede, no, ma non vorrei portarvi sfortuna infatti, tornando tra di voi. No, però no. Al contrario. Anche prima non ce la passavamo male, però devo dire la verità, da quando lei non è più voluto venire alla Zanzara c'è stata un'escalation, chissà come mai. Speriamo ora di continuare su lungo questa trend ascensionale. Senta, senatore, dunque lei è presidente della commissione agricoltura. Benissimo, sai che ho letto una cosa, lei ama le battute, sicuramente l'ironia, non è che ne ha subite tante di ironie in questi ultimi mesi, figuriamoci. C'è una cosa eccezionale che ho letto. Allora, Formigoni, all'agricoltura con le camicie che indossa sarà un ottimo spaventapasseri. Mi dica, è bella, non è male questa qua, su, non è male, è solo che lo spaventapasseri deve farlo a tempo pieno, mentre io con le camicie le indosso solo nel tempo libero, quindi. Scusate, poi l'ho vista molto parziale della mia giornata. L'ho vista un po' sobrio di recente, non sfoggia più. Mi ha visto in abiti istituzionali, che sono quelli che normalmente indosso quando facevo presidente di regione, adesso che faccio senatore. Poi nel tempo libero, quando vado a correre, quando vado a fare i giri. Ma corre ancora? Corre ancora? Assolutamente sì, si prepara la settimana. Si prepara a qualcosa, no? Qualche garetta, no? Garette, beh sì, sono sempre quelle garette amatoriali, la Stramilano. Ma è dimagrito, è ingrassato recentemente, com'è la situazione? Importante. No, continuo a mantenermi entro limiti dignitosi, diciamo un paio di chili sopra il peso forma, quindi va tutto bene. Però non le manca un po', Parenzo, sai quando uno insomma è stato tanti anni, no, in quella struttura che poi è cambiata, è diventata più grande, il pirellone, ultimo piano, grande, non le manca un po', mi dica la verità, sia sincero, un po' le manca. Guardi, le dico che come filosofia sono abituato a guardare sempre avanti, dopodiché se non provassi un minimo di nostalgia per questi straordinari anni che ho passato tra il grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia le mentirei, perché sono stati anni di grandi soddisfazioni, di grande impegno, dico anche di grandi risultati. Ma le manca proprio come il potere, il vero potere, no? Ma no, guardi, piuttosto la modernità, perché onestamente i palazzi di Roma, il Palazzo del Senato, Madama sono monumentali, ma non sono affatto moderni, anzi sono antichi. Funziona niente. Qui a Milano abbiamo costruito l'efficienza assoluta, il nuovo Palazzo Lombardia, che è assolutamente non inquinante, che ha gli ascensori più veloci installati in Italia, che ha una vista stupenda, che ha meritato il premio di miglior grattacielo d'Europa. Beh, insomma, lei mi dice, è una soddisfazione di averlo costruito. Al contrario, Roma è una roba tremenda, questi palazzi antichi, a non Roma funziona non niente. Si decidono a scegliere la via dei grattacieli per parti limitate della città. Cioè anche il Parlamento dovrebbe scegliere, basta questi palazzi, via, no, portiamo in periferia. Guardi, il Parlamento, onestamente, la Camera dei Deputati ha una sua logica, il Senato è stato costruito per accostamento di edifici già preesistenti, quindi è tutto un intrico di scale, scalette, ascensori. Portiamolo fuori, no, facciamo un bel... Bisogna tracciare la mappa per raggiungere la propria postazione in aula piuttosto che perché la non facciamo, perché non facciamo un grattacielo, lo portiamo fuori Roma, non sarebbe una buona idea? No, perché no? Non ho più competenze in quel settore, quindi spetterà ai presidenti di Camera e Senato eventualmente. Senta, ma perché, adesso per carità, detto con tutto il rispetto, però lei è una presidente della Regione Lombardia, è vero che qualche guaio ce l'ha, però presidente della Commissione Agricoltura, sembra quasi, perché non ha fatto il ministro, per esempio? Hanno messo qualche veto? Nessuno no, ha proposto? No, perché nel ministro, per la formazione del governo, lei ricorderà, si è deciso di puntare tutto su persone nuove che non avessero precedenti esperienze di governo. Governo, però. Né a livello di governo nazionale né a livello di governi regionali. Si sono fatte soltanto due eccezioni, per il Premier e il Vice Premier, dove sono stati nominati Letta, vice segretario del Partito Democratico, e Alfano, segretario del PDL. Tutti gli altri sono esordienti assoluti. Analogamente è successo per i sottosegretari. Diciamo noi che avevamo qualche esperienza di governo, quindi che appunto al governo avremmo potuto dare il nostro contributo, invece abbiamo scelto di militare alla presidenza delle commissioni. In periferia, un po' in periferia, su, un po' in periferia. Diciamo che è certamente un ruolo meno visibile. Poi l'agricoltura, Formigoni, lei che ne sa? Lei che ne sa? L'agricoltura è uno dei settori su cui l'Italia sta riguadagnando. Vabbè, ma lei che ne sa? Lei sa qualcosa di agricoltura? Ma guardi, come presidente di Regione Lombardia io ho governato la regione più importante d'Europa dal punto di vista agricolo per 18 anni. Ma lei sa, per esempio, a quanto equivale un ettaro? un ettaro, ma certamente sì, è un quadrato di 100 metri per lato, su via, non mi faccia queste domande elementari. Torniamo a parlare invece del Made in Italy. È fondamentale questa cosa. Dei prodotti. A noi che ci frega del Made in Italy? Insomma, è la bontà di quello che mangiamo, di quello che arricchisce le nostre tavole, anche di quello per cui tanti ospiti stranieri potranno venire, perché la nostra cucina si va facendo strada. Lei è presidente di commissione, non è che fa il ministro, parla come ministro. Lei non avrebbe sfigurato come ministro, diciamo la verità. Questo lasciamolo giudicare i posteri. Credo di no, ma sono soddisfatto di poter dare una mano al governo di questo paese, presidente di commissione. Sono contento di avere un ministro come la signora Di Girolamo, bravissima Annunzia Di Girolamo. Scusi, ha letto che cosa ha detto il signor Zanda ieri nell'intervista famosa di Avvenire? Che lei si dovrebbe dimettere perché è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere, corruzione, eccetera, eccetera. Che dice? Come si risponde allora, signor Zanda? Due risposte. La prima, ho visto che Zanda è rimasto isolatissimo. Non si è levata dal suo partito una sola voce a dirgli bene, bravo bis, tant'è vero che alla sera porta a porta ha dovuto fare retromarcia, che esprimeva soltanto un'opinione personale. Ma la seconda valutazione, vedi, io sono uno spirito buono e gentile, non avrei detto quello che sto per dire, ma lei mi tira proprio in mezzo, me lo costringe a dire. Ma lo sa Zanda che ci sono due viceministri di questo governo indicati dal Partito Democratico che sono pure loro implicati in vicende giudiziarie? Ma rinviati a giudizio? Io non sono rinviato a giudizio, loro credo proprio una richiesta. Lei ha una richiesta al loro carico, ma vede, io dico questo convinto della loro innocenza, perché per la legge un cittadino italiano è assolutamente innocente. No, questo qua ci sta, però io le faccio una domanda, vede l'incompetenza del signor Zanda, che parla dell'erba del vicino senza guardare in casa propria. Ci sono due viceministri in materie importanti. Ma che sono indagati? Che c'hanno? Certamente, hanno diverse indagini a loro carico. Ma non parliamo, cose nelle perché sono mentre qua? Zanda è un giustizialista, io non lo sono. Ma chi sono questi sono qua? Sono un garantista. Beh, adesso non... Poveretti, perché deve essere tirato in ballo il loro nome, visto che la colpa non è loro, ma la colpa è del loro... Scusi, Formigoni, però le faccio una domanda. Se lei fosse... se lei fosse condannato in primo grado per questa vicenda qua, per cui c'è questa richiesta di rinvio a giudizio, guardi, allora, lei si dimette da senatore o no? No, ma una domanda semplice. Io, a me non è mai capitato di essere condannato, mai. Se sarà un'ipotesi, che la magistratura milanese mi ha sempre reso destinatario, diciamo, di grandissime attenzioni. Assolutamente. Tant'è vero che ha ritenuto di mandarmi a giudizio per 11 volte. Vabbè, insomma, lei se mai fosse condannato, adesso devo dare la pubblica. Non capiterà. Nelle 11 volte precedenti. Ma se non fosse condannato in primo grado, ma sa perché? Perché io so bene ciò che ho fatto. È chiaro che lei si proclama innocente. Non ho commesso neanche un reato. Io credo nella. Ma se fosse condannato, si dimetterebbe o no? Si dimetterebbe se fosse condannato in primo grado o no? No. Come mi divertirebbe? No, si dimetterebbe se fosse condannato in primo grado o no? Non parlare di un'ipotesi del quarto tipo, quella che è l'ipotesi dell'irrealtà. Del quarto tipo, dell'irrealtà. Non capiterà e quindi non sarò tenuto a fare pubblicità. Poi torniamo con Roberto Formigoni, ex. Oh, quanto gli pesa questa cosa, presidente della Regione Lombardia. Di successo in successo passate. Vede, no, ma non vorrei portarvi sfortuna tornando tra di voi. Al contrario. Quando la zanzarina tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy stanco. Non c'è un paese in Europa o al mondo che c'è uno con un piccone sta lì delle ore e non succede niente, ammazza tre persone ed è un clandestino. E allora se parli dei clandestini, la sinistra ti dice subito che sei un razzista. Non si siede a un tavolo e ti dice: ma come cazzo è che c'è un clandestino negli Stati Uniti? Io non capisco perché dici che ha torto Grillo, Parenzo, francamente non lo capisco. Come fai a dire che su questo ha torto Grillo? Io lo sai che non ho il prosciutto davanti agli occhi, per cui giudico le cose per come le vedo, giudico le frasi per come sono pronunciate. Ha torto Marcio, ma magari... Ma cosa magari, ha torto? Cosa ha torto? Cosa magari ha torto? Su cosa ha torto? Dice che invece ha ragione Grillo, ma in questo caso... Secondo questo lei caso... Formigoni, Cabobo, questo ghanese che ha ucciso le persone, bisogna curarlo in Italia oppure al più presto deve tornare in Ghana? Ma innanzitutto va giudicato in Italia perché ha ammazzato tre persone, quindi sì, va sottoposto ad un processo, io immagino che dovrà essere condannato. All'ergastolo, sia... secondo lei? Come? All'ergastolo, secondo lei? No, questo ci penserà la magistratura, però un uomo che ammazza tre persone senza nessuna provocazione, certo, la pena è quella dell'ergastolo, dopodiché sì, sarà il magistrato decidere, e secondo le norme dei rapporti internazionali tra i paesi potrebbe dover scontare la pena in Italia oppure nel suo paese d'origine, ma la pena è quella comminata dalla magistratura. Però qualcuno dice sì, non possiamo mantenerlo in Italia in carcere un assassino di questo tipo, eccetera. Ci sono delle norme precise e quindi saranno applicate queste norme, quindi quello che è accaduto a Milano è un delitto efferato, gravissimo, compiuto da una persona. Ecco, vede, poi vanno distinte le due cose, perché questo delitto efferato va punito in quanto un crimine inaccettabile. Dopodiché c'è anche il fatto che è un clandestino, fortunatamente non è che tutti i clandestini commettano delitti di questo tipo. Sul tema della clandestinità l'Italia, al pari di altri grandi paesi, ha stabilito che può emigrare, può venire qui da noi chi ha già un posto di lavoro garantito, chi viene clandestinamente, per esempio, rispedito al suo paese. La domanda di asilo, no, su cui si discute, l'appello è giustificato o no? Secondo me è una follia l'appello, cioè una volta che tu fai la domanda di asilo, uno ti dice no, perché devi presentare appello? Non è mica un giudizio di primo grado o in secondo grado. Ma perché in Italia c'è questa lungaggine del Ma lei è d'accordo? È d'accordo nell'eliminare l'appello per la richiesta di asilo oppure no? Guardi, anche qui si tratta di convenzioni internazionali, ma quindi non è che l'Italia possa fare leggi per suo conto. Ci sono dei meccanismi, semmai andrebbero resi più rapidi, perché la giustizia tutta in Italia ha bisogno di essere resa più rapida. Ma la questione di Berlusconi, Parenzo, senatore a vita, no, che ha sollevato anche Zanda. Infatti io questo volevo capire, perché lei sarebbe d'accordo, Formigoni, cioè sarebbe degno, perché Zanda ha parlato di indegnità di Berlusconi per la vita privata che fa, e vabbè, quello è un giudizio di Zanda pesante certamente, eccetera. Ecco, secondo lei invece per la vita, per tutto, Berlusconi sarebbe degno per di il fare paese. Guardi, anche qui gli ha risposto bene a Zanda un suo compagno di partito, l'onorevole Latorre, che gli ha detto le decisioni spettano al Presidente della Repubblica sui senatori a vita, quindi caro Zanda, non andare al di là del tuo orto, i latini avrebbero detto ne ultra crepidas sutor, ciabattino, non fare ancora chiasso, rimani alle tue competenze, capogruppo del PD ha delle competenze limitate dei senatori a vita, si occupa Napolitano che saprà scegliere bene. Com'è questa citazione? Ne ultra sutor crepidas, non fare ulteriore chiasso o ciabattino. Beh, ciabattino non è bello, vorrei che fosse il signor Zanda. Così la citazione latina dice così, poi Zanda non fa il ciabattino, fa il capogruppo. Ma lei lo vedrebbe bene Berlusconi? Ma deve stare al suo posto, deve imparare a stare al suo posto. Non lo vedrebbe bene senatore a vita Berlusconi? Sarebbe Zanda? Zanda no, non credo Zanda che sia. Zanda mai. Zanda mai. Ripeto, sono decisioni che spettano No, vabbè, questo lo sappiamo, Formigo, lo sappiamo che spetta il Presidente della Repubblica. Ma ci sta o no? Mettiamolo in un altro modo, perché non bisogna invadere le competenze del Presidente della Repubblica. Se partisse una petizione al Presidente della Repubblica per chiedergli fare Berlusconi senatore a vita, io la firmerei. Vabbè, d'accordo, lei certamente firme. Dunque, vedrebbe bene Berlusconi senatore a vita, non sarebbe una follia, diciamo. Non sarebbe una follia, nel senso. Ma servirebbe a sbrogliare un po' di cose, secondo lei, dal punto di vista politico? La carica di senatore a vita è una carica onorifica che va riservata ad alcuni cittadini che hanno ben meritato in alcuni campi. Berlusconi ha ben meritato nel campo imprenditoriale, nel campo politico, quindi non ci vedrei nulla di strano. Dopodiché, ripeto, è facoltà dei cittadini, e io sono un cittadino, di avviare una petizione al Presidente della Repubblica, poi il Presidente della Repubblica decide nella sua saggezza se aderire o non aderire. Certo, ma io credo guardi, che potrebbe essere, visto che siamo in un governo che ha tra gli altri obiettivi quello di portare ad una pacifica del paese, facendoci uscire da questa guerra civile strisciante che ci avvelena da 20 anni, lei dice. Vedrei bene che alcune persone, che il Presidente della Repubblica potesse anche fare delle nomine di senatori bipartisan, a vita. Bipartisan, sì, magari, no? Certo, in questo momento. Cioè, vedrebbe Berlusconi e Prodi, per esempio. Per esempio, sarebbe una bella iniziativa se il Presidente decidesse di prenderla. Certo, sempre quello, ovviamente. Italia di 20 anni fa, comunque. un'Italia diventata. Beh, certo, senatore Vita non è che può farlo uno di quei 40 anni, Parenzo. Ma si può anche dire no. Andrebbero aboliti, andrebbero aboliti, senatore Vita. Si può anche dire che non andrebbero aboliti, aboliti. Però d'accordo. Tra l'altro, devo dire la verità, l'ho ripetuto anche ieri. Insomma, a proposito di indegnità di comportamento, se proprio uno deve parlare di questo, e secondo me non bisogna parlare di questo per quello che riguarda i senatori a vita, ma di altre cose, insomma, c'è un esempio di una persona che è diventata senatore a vita nonostante abbia ammesso di aver fatto uso di cocaina, che è il senatore Colombo, persona stimatissima. Però se uno proprio deve parlare di queste cose, allora Zanda dovrebbe ricordarsi anche di questo. Io non ne parlo perché non me ne frega niente se uno ha usato cocaina. Lei per esempio ha mai usato droghe? Si è mai fatto una canna, signor Formigoni? No, mai. Cane mai, no. Mai, rischia di essere una mancanza in quest'epoca, ma non hai fatto uso di droghe? No, di sa, sostanze, con quelle camicie un po' hippie, con quelle camicie. Vedo che tutti quelli a cui fanno la domanda dicono: ma sì, io veramente in gioventù ho fatto questo, ho fatto quest'altro. No, io in gioventù non ho, né in gioventù né in età più avanzata, ho mai fatto uso di droghe. Ma senta, io conosco un sacco di cellini, amici miei a Rimini, altrove, che si fanno un sacco di canne. Ma questo non lo so se sia vero, ma comunque no, è vero. Cellino, non cellino. Io non ho mai fatto uso di droghe, francamente, tra i miei amici in CL ne conosco tanti, non ho conoscenze. Ma guardi che non è mica, le canne non sono mica la morte, Non ho mica detto questo. È una cosa normale. Ho detto soltanto che personalmente non ho mai fatto uso e non sento il bisogno. Ma no, ma quello è legittimo, guardi. No, ma adesso le droghe, no, ma siamo insieme, Siamo insieme. Io non ho mai fatto. Ha a che fare con il ragionamento che stavamo facendo prima sugli stili di vita, sì, personali. È sempre molto difficile andare a giudicare uno stile di vita però personale. Berlusconi con tutte quelle donne da presidente del Consiglio, a fare le feste. Guardi, torniamo all'antica saggezza della Chiesa Cattolica, mi permette, cioè, di dire questo, cioè, che chiede a uno di fare la confessione privata, uno non deve raccontare in pubblico i suoi peccati, li dice al suo confessore e questo basta. Se si potessero ascoltare le confessioni di tante persone anche stimatissime, probabilmente verrebbero fuori delle cose che Zanda giudicherebbe non commendevoli, ma perché ciascuno di noi... Cioè lei dice invece del processo davanti alla Boccassini basterebbe il confessore per Berlusconi? Voglio dire, queste cose sarebbe utile che rimanessero, siccome sono episodi di vita privata, che rimanessero all'interno della vita privata. Vabbè. Per quanto riguarda il processo in corso a Milano, io noto alcune stranezze, noto che i reati per cui Berlusconi, sì, è sotto indagine non hanno vittime, perché le presunte vittime, sì, sì, vabbè, dicono di non aver subito nessun torto. Rubi dice di non aver mai avuto però offerte. Lei dice, se proprio uno deve confessare qualcosa, basta il confessore, non il tribunale. Se è qualcosa che attiene alla sfera morale, quindi privata, non attiene privata al reato, ma al, sì, peccato, certamente basta il confessore. Senta, ma se a lei guarda in faccia la Boccassini, cosa le viene in mente? Rispetto per la signora Boccassini. Ma le piacerebbe essere giudicata dalla Boccassini? Per farebbe... le tante sue battaglie contro la mafia, contro l'andrangheta, sì, però... dopodiché non condivido le valutazioni che lei dà sul caso Berlusconi, ma questo non mi porta ad esprimere nessun giudizio di altro tipo. No, ma con Berlusconi ha una passione particolare, ha un'attitudine particolare, una fissazione, molti lo dicono, magari ma lei non lo pensa. Ma non lo so e non so se sia stata protagonista in altri procedimenti contro il presidente Berlusconi. Dico soltanto che in questo caso mi sembra strano che sia coloro che avrebbero subito il reato di concussione, sì, sia colei che avrebbe subito il reato di aggressione sessuale, dicono di non aver, sì, subita né l'una né l'altra cosa. Quindi francamente il processo mi sembra messo in piedi su basi instabili, su un palafitte che fanno acqua da tutte le parti. Comunque Parenzo, sai che... qualcuno mi suggerisce, ma scusa, qualcuno coltiva, a proposito di agricoltura, coltiva marijuana anche a casa? Amica, allora, va bene, l'agricoltura dei casi anche recenti a noi. Ma mica vanno arrestate quelle persone. Come? Mica vanno fermate quelle persone. Non conosco esattamente le normative in quella direzione. La legge credo che stabilisca che la detenzione di marijuana per uso personale non costituisce reato. Certo, se uno viene scoperto a coltivare qualche ettaro di marijuana, probabilmente c'è una fattispecie di reato di altro tipo. Non potrà raccontare che la coltiva per uso personale. No, però uno a casa la può coltivare tranquillamente, dice, per uso personale. Cioè... Lei dice? No, la domanda la faccio a lei. Per uso personale credo di sì, però non lo so, sarà una piantina, due. Ma una piantina, due si può coltivare, su. Si può coltivare, è la legge che lo stabilisce. No, appunto, dico. Se è così, non conosco in dettaglio la normativa. So che la detenzione di ma una per lei ci sarebbe qualcosa di male a coltivare? Per uso personale non costituisce reato. Secondo lei c'è qualcosa di male a coltivare un paio di piante di marijuana a casa? Non credo. Beh, insomma... però gli episodi di cui stiamo parlando erano decine. Ma in generale, se uno gli ha detto, mi messo, io non sono un utilizzatore di marijuana, però se io vado a casa e mi metto su due piantine di marijuana, mica commetto un reato. Cioè, credo di no, ma non conosco il codice. Vabbè, in questo verificheremo. No, lei è il presidente della commissione di agricoltura. No, Parenzo, che c'è? Che mi devi dire? No, volevo capire dal presidente. No, io voglio fare una proposta invece, una grande proposta. Siccome lui ha detto due giorni fa che è una nostra graditissima trasmissione di Amici Nostri, Un Giorno da Pecora, che andrà in vacanza non so dove, che non andrebbe più in vacanza con D'Accò. Non credo che andrebbe più in vacanza con D'Accò, ma non vogliamo tornare su queste cose. Dov'è che andrebbe in vacanza? Ho detto che non andrei più in vacanza con i Caraibi, che comunque i posti più belli del mondo, almeno che io abbia visto, sono tutti nel Mediterraneo e moltissimi sono in Italia. Ma dove vai in vacanza? Onestamente. Dove vai in vacanza quest'estate? Non ancora deciso. Però facciamo un patto per eliminare qualsiasi problema. Lei dal primo giorno che tiene va in vacanza, gli scontrini. No, tiene tutto e soprattutto li pubblica su Facebook. Io voglio pubblicarli sul web. Ma non capisco perché, voi tenete gli scontrini e vacanze di 10 anni. No, ma assolutamente. Ma questa estate, presidente, visto che il tema dello scontrino è caldo, i grillini, quant'altro. Uno deve tenere gli scontrini, le ricevute di ciò che spende col denaro pubblico. Ma se uno spende il proprio denaro, se un amico ti offre il pranzo o la cena, ma da quando in qua bisogna tenere gli scontrini? Vabbè, ma facciamo che lei quest'estate li dia. È una follia che si sono inventati, non potendo addebitarmi altro, perché ma io non volevo tornare su queste cose qua, altro, mi accusano di non avere trattenuto gli scontrini di vacanze private, ma io non la volevo pagandomele, ma non la volevo portare su queste cose qua. Io dico, perché l'estate prossima lei non fa una grande operazione di trasparenza? Ma chi se ne frega poi, portare gli scontrini, pubblicare gli scontrini delle sue vacanze. Le ripeto, chi se ne frega, non mi sento assolutamente tenuto a fare questa operazione di trasparenza, come io non detengo gli scontrini delle spese che faccio ad uso personale. Se invece sono in missione per la regione, adesso che per il Senato, è ovvio che devo rendicontare tutto. Ma quanto ha preso lei di buonuscita dalla regione Lombardia? Ma non è buonuscita, è la TFR, trattamento di fine rapporto. Quanto? Ma non è... Guardi, innanzitutto la regione ha comunicato, non a me che non l'ho ancora chiesto, ma a coloro che hanno fatto richiesta, che per ora non ci sono fondi, quindi la cosa viene rimandata alle calende greche. Dopodiché c'è un tot per ogni anno che tu hai fatto, ma attenzione, diversamente che hai fatto tu, quindi la regione ci restituisce dei fondi che noi abbiamo anticipato. Vabbè, questo TFR quanto ammonta? Non lo so con esattezza, 300.000 non è certamente il mezzo milione di cui ha scritto un grande giornalone. 300.000 credo, 300.000. Com'è? 300.000 se non sbaglio. Forse qualcosa di meno. Sì, però scusi, non è una... è vero che voi avete dato un contributo eccetera per questa cosa qui, ma è suona strano, no? Non bisognerebbe abolirle queste cose qua, mettete tutte... Il TFR, ma per carità, il TFR è una parte dello stipendio dei lavoratori. Insisto nel dire, ogni lavoratore, che sia a livello dirigenziale, che sia a livello basso, io sto parlando alla fine politici, della sua vita lavorativa o del periodo che trascorre in un'azienda, ma il politico è diverso. Trattamento di fine rapporto. Ma il politico è diverso, però è una cosa diversa quella roba lì. Cioè, quando uno fa per 5 anni. Il politico che faccia il politico a tempo pieno, ma cioè che lo faccia. Ma le pare normale che prenda il TFR? Ma non esiste nessun altro ordinamento mondiale. Ma le garantisco di sì. Ma le garantisco di sì. Controllerò. Sono contributi che l'azienda ti restituisce, ma che sono trattenuti dal tuo stipendio, dal tuo emolumento, mese dopo mese. Secondo lei è corretto prendere il TFR della Regione Lombardia quando uno finisce di fare il deputato il presidente? Va bene. Questi sono i regolamenti che sono entrati in vigore 50 anni fa, 40 anni fa, all'istituzione delle regioni piuttosto che del Parlamento. Ogni parlamentare, ogni deputato, ogni singolo consigliere regionale ha visto trattenuto mese dopo mese dal suo emolumento una cifra che gli viene restituita quando abbandona quella carica. Ma ho capito, questo avviene per ogni tipo di professione. Lei può dirmi, non è giusto che i politici vivano di quello che fanno in politica. Benissimo, stabiliamo che uno debba mantenersi facendo un'altra professione e fa il politico a tempo perso. È una scelta, secondo me, controproducente. Noi abbiamo bisogno di politici seri che si dedichino fino in fondo. Ma la regione non è un'azienda. Famiglia, ma la regione non è ricco di famiglia. Ma la regione non è come un'azienda, presidente, non è la stessa cosa. Ma mi scusi, è anche come un'azienda. Da Regione Lombardia dipendono 3.000 sì, d'accordo, però secondo me il TFR per cioè, circa un decimo di quello delle altre regioni. Potremmo discutere fino all'infinito. Abbiamo fatto una spending review sì. in questi anni straordinaria. Senta, un'ultimissima cosa le chiedo. Lei condivide quello che ha detto Longo, che avrebbe sparato a Cabobo, l'avvocato no, del PDL? No, non lo condivido. Innanzitutto io non ho il porto d'armi, non porto con me la pistola. Le farebbe impressione sparare con qualcuno, a qualcuno, sì? Fortunatamente non mi sono mai trovato in queste condizioni. Certamente... di fronte ad un episodio così grave di aggressione avrei cercato di difendere le persone, per carità, esponendomi anch'io alla violenza di quella persona. Cioè si sarebbe persona. Messo di fronte a prendere lei un'accettata, non mi dica? Come? Si sarebbe messo di fronte, si sarebbe frapposto no, no, tra... evidentemente no, voglio dire, però l'istinto di dare una mano a, un tuo, a una persona, a un essere umano... Però la pistola, vedi... anche se ce l'avessi avuta, non l'avrebbe usata? Non lo so. Francamente non lo so. Le ricordo che utilizzare le armi per difendere una vita innocente non può essere considerato un reato, cioè io sarei intervenuto a difesa dell'innocente che era minacciato di morte Vabbè. Da una persona che voleva delinquere, quindi l'uso delle armi per difendere credo che non avrebbe trovato obiezioni da parte dei magistrati, no, perché infatti, appunto si trattava di difendere una vita aggredita da altri, in questo caso si trattava di difendere che... addirittura tre vite. Non è che lei è uno di quelli che dice Parenzo come la Lega che Pisapia ha qualche responsabilità in questa vicenda, no? Beh, guardi, Pisapia ha la responsabilità di avere chiesto l'allontanamento dell'esercito da Milano, che la precedente amministrazione invece aveva fatto. Vabbè, ma non è che con l'esercito si risolveva, si salvavano quelle vite umane. No, magari sarebbe successo lo stesso, però la presenza di un numero maggiore di agenti, in questo caso di soldati, nei quartieri, scoraggia i malintenzionati. Dunque, la avrebbe scoraggiato persone in divisa, scoraggia il malintenzionato che vuole aggredire, che vuole compiere un furto, che lei vuole dice, compiere uno scippo. Bisogna vedere quanti ce ne sono. Grazie, Presidente. Grazie a voi. Voi siete delle persone certamente intelligente, non sempre intelligente, ma provate ad essere intelligenti. Ma voi ci fate uno sforzo, va bene, no? La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ruota. La gente povera, quale siamo sicuramente io e la collega, perché anche se il Corriere della Sera ci descrive come la casta, io e la collega apparteniamo agli italiani meno abbienti, non ma so. Di sicuro la collega la collega mi scrive anche a me. Io scusi, andrei piano però con queste affermazioni. No nel non senso voglio che, dire no, che stiamo scusi, messi peggio. No, Rotondi, per no, piacere. Non siamo messi non abbiente. Lei ha uno stipendio da parlamentare. Non siamo, non, rispetto alla maggior parte delle persone, non può un break, dire. Le spiego come sì, lo prego, uso. Prego. Se mi concede un break, le spiego come lo uso e vedrà che non sono certo una persona abbiente. Sì, lei lo può usare come vuole, però intanto lei ce l'ha. Ed il sonno poi mi assale. Tutti poveri allora, 800 24 00 24, questa era Rotondi, ieri notte, Giuliano, provincia di Modena, buonasera. Il solito piagnisteo di Rotondi. Giuliano, il provincia di Modena. Pianto del buonasera. Pianto greco. Un saluto a lei, a Cruciani e anche a Parenzo. Volevo dire due cose veloci se posso. Prima di tutto una cosa a vostra difesa, perché molti dicono che siete imbecilli, che questo non costituisce il reato inserito nel codice penale, che ne state approfittando davvero troppo, e tanti altri apprezzamenti poco eleganti, però nessuno pensa mai di promuovere una class action contro di voi, e Parenzo come figlio di avvocato... Beh, adesso la class action contro di noi mi sembrerebbe eccessiva come cosa, caro Giuliano. Allora, vabbè, avreste poi... ottime possibilità di essere rovinati a vita, dicono tutti che siete due ma cretini... Ma class action per che cosa, scusi? Fioma, class però action... non sono d'accordo. Vabbè, poi... Ecco, il mio intervento era invece relativo, e questo farà un po' trasalire dalla sedia a Parenzo, su ciò che dice spesso il giornalista Vanoli, che lei invita di tanto sì, sull'urinoterapia, sì. Mamma mia. Sì, io invece proporrei... Dice anche che i gay sono malati e vanno curati, però comunque... Ma io anzi no, che i vaccini, non... che i vaccini non portano, conosco, fanno diventare gay. Ecco, no, però invece io consiglierei un uso non invasivo delle feci, e poi magari Vanoli lo commenterà nelle prossime non ho capito, scusi. L'uso non invasivo delle ceci, delle feci propone costui. Sì. Cioè che vuol dire uso non invasivo delle feci, ma in caro sintesi, Giuliano? Adesso glielo sintetizzo. Caro in professor Giuliano, in questo bisogna sì. ritagliare dai giornali le facce dei politici più simpatici, Gaspari, la Mussolini, Brunetti, la Giannini, sì. Biancofiore, la Santanchè, ognuno si sceglie i sì, suoi. Sì, chissà, lei ha scelto solo quelli di centrodestra. Vabbè ma non fa niente. Quelli sono i più simpatici, però bisogna avere cura di farli cadere nel vatro, nella turca, con la faccia ben visibile. e poi a questo punto basta calarsi i pantaloni e defecarci sopra. I risultati sono immediati, la stitichezza scompare, però ci sono anche miglioramenti psicosomatici sul buon umore, leggerezza e risate. Scusi. Bene, bene Giuliano, scusi. Prenderemo in considerazione questa cura. Matteo dalla provincia di Bologna, cosa vuoi dire Parenzo a Giuliano? No, no, no, non ho capito perché queste teorie, non le, tu dici non ci sono le telefonate, ma chiamasse da Barisoni anche per esprimere... Non ci sono le telefonate, non ci sono gli ascoltatori. Ma le dovrebbe mettere a Barisoni, voglio vedere se chiama la gente così. Che Matteo, provincia di Bologna, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Niente, volevo intervenire semplicemente in favore dell'uso dell'insulto, che secondo me sì. È molto sottovalutato. In bravo, realtà. Dica. Ieri mattina ho sentito Mulet sì. A R101, che l'ha citata anche durante la sua sì. Il suo racconto. Bene. E dichiarava che chi ha una buona padronanza del linguaggio non dovrebbe usare l'insulto. Io invece ritengo che l'insulto sia parte del linguaggio, che non, cioè, non ho capito, mi criticava, non ho capito. No, scusi, ho detto l'ha citata, cioè ha citato perché se ho ben capito, ma ero in macchina. Vabbè, allora ho ben capito in questo numero c'è una vabbè, un sì, dunque. Dunque dico che invece l'insulto è una cosa che va utilizzata ad hoc, non bisogna abusarne assolutamente, va bene. Perché l'insulto è un'arte, è intuizione, analisi e sintesi. Uno che fa sempre la cosa sbagliata, ripetutamente, che fallisce in tutto quello che fa, che le scelte più facili fallisce in qualunque cosa. Lei come lo chiama? Io lo chiamo deficiente. La signora che... Non è proprio un insulto deficiente, comunque, insomma. Ma vabbè, insomma, io... Si può dire... Può essere, secondo me, vissuto anche come un insulto. Comunque, la signora che per dire ha telefonato ieri sera e ha coperto di male parole Parenzo, secondo me assolutamente inappropriata, quella è una deficiente, non è una squilibrata come l'ha definita Parenzo. Vabbè, lei usa deficiente come insulto, ormai deficiente è quasi una carezza. Grazie Matteo. Ferruccio da Siena, buonasera Ferruccio. Sì, buonasera Bada. Cruciani, buonasera. E io telefonavo per criticare, purtroppo. E quindi critichi, vada. Ecco, questo vada, dunque, allora... Ferruccio, io conduco così, se le piace bene, altrimenti cambi canale e non mi rompe i coglioni, su. Ecco, allora, visto che le ha sparato, spara anch'io, ma vaffanculo, Cruciani. Allora, bene, ma sì, bisogna saperle dire le parolacce però, Ferruccio. Ha ragione, insieme. Se le dice così in maniera innaturale non vale, cioè... Ha ragione. Vabbè, io non voglio avere ragione, però, Ferruccio, vada. Non ho altro da dire, purtroppo mi ha freddato. Vabbè, che cosa voleva dire, Ferruccio? L'aiuto, su. Niente, richiamerò, via. Giuseppe, provincia di Salerno. Lo hai, poverino. L'ho incenerito, però, pensavo che combattesse di più. Giuseppe, allora. Buonasera, salve. No, chiamavo giusto anche io per fare una critica, però innanzitutto mi complimento per la trasmissione perché è l'unica forse trasmissione schietta che c'è in Italia. Sì. La critica che volevo muovere era questa. Lei prima ha mandato a quel paese molto educatamente una ragazza che ha contestato il PDL e i suoi esponenti. Però sentendo Formigoni e l'intervento di Formigoni questa sera io avrei fatto anche di peggio, voglio dire. Cioè una persona che si è appropriata di soldi indebitamente e ancora sta nel giro politico, ancora parla, si permette di parlare di giustizia, di ancora non è stato condannato per a nulla Formigoni, attenzione. Sì, lo so, però lo so però è mica stato condannato. Quando sarà condannato di essersi fottuto un sacco di soldi saremo lì ai primi a puntare il dito eccetera. Però voglio dire, Formigoni che parla di giustizia. Ma non ha parlato di giustizia, non mi pare che abbia parlato di giustizia. Allora, mi faccia parlare solo un secondo. Ha parlato dei gradi di giustizia che sono così lenti, ha parlato di Cabobo che ci sarà un iter molto lungo, voglio dire. Vabbè, ma quelle sono parole. Lei come sa, i politici sono abituati a fare i comizietti. Tutti i politici, non solo Formigoni, noi cerchiamo di limitare al massimo. Ha ragione. Noi infatti cerchiamo di limitare al massimo, non sempre ci riusciamo, cerchiamo i momenti del comizio, delle frasi fatte. Solo che ogni tanto qualcuno si lascia andare, noi ascolto per 30 secondi, poi bisogna intervenire per portare le persone su quello che vogliamo noi, poi sarà discutibile quello che vogliamo noi, però l'intento è quello. Abbiamo la borsa, torniamo subito con grandissimi ospiti per l'ultima mezz'ora, rimanete qui, incollati fino alle 21, la Zanzara 800 24 00 24. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. siccome Rotondi su Twitter dice che non è vero, che ha detto che siamo poveri, eccetera eccetera, facciamo risentire una parte ovviamente del suo intervento ieri sera a Omnibus Notte, in cui ha detto esattamente queste parole che potete ascoltare. La gente povera, quale siamo sicuramente io e la collega, perché anche se il Corriere della Sera ci descrive come la casta, io e la collega apparteniamo agli italiani meno abbienti, non so. Di sicuro la collega. È la collega. E... mi adorano perché. Mi sembra chiaro, no? Cioè, la gente povera, cui apparteniamo io e la collega, gli italiani meno abbienti, insomma, questo è. Poi magari parlava delle persone presenti lì, ma insomma, i concetti sono questi, le parole sono queste, cioè non mi sembra molto, non mi sembra che ci sia da discutere, ecco, insomma. Poi tanto smentire è facilissimo, no? Io non l'ho detto, non l'ho capito male. Ma no, ma poi bisogna inserire in un contesto. Ma quale contesto? No, ma per dire, questo è quello che dicono rispondendo. Intanto Berlusconi è stato indagato, anzi no, indagato, scusate, ascoltato a Bari come indagato in un altro processo, la vitola, eccetera, eccetera. Raffaella da Milano, poi un grande ospite, Raffaella, rimanete qui, Raffaella. Sì, buonasera. Vada. Sì, senta, io volevo dire questo, vabbè, è un periodo in cui, vabbè, sono un po' depressa. Un perché po' depressa, triste. Signora Raffaella? Perché? Vabbè, un po' di problemi a casa. Che un è successo? Po' di mi dica. Salute, mi dica, di salute. Comunque, pensavo, senta, io pensavo volevo dire che amore, oggi no? Ero di buon umore, perché sì. ho letto su internet, sì. Ruby e raccontava delle sue serate. Sì. Quando poi sono arrivata... al pezzo in cui si diceva che si travestiva da Boccassini o da sì, Obama, sì. Mi sono detta, caspita, vorrei tanto somigliare a quest'uomo che riesce anche nelle peggiori delle situazioni trovare l'ironia per superare anche questo problema. Io dico tanto di cappello perché... Cioè? E poi ho riso tutto il giorno, l'idea di questa signora che si vestiva da Boccassini con la parrucca rossa. Lo so, ma Berlusconi mi sono detta, si divertiva anche così. Dovrei Berlusconi. Imparare anch'io, cioè, ironizzare sui propri problemi, onestamente... Cioè, vorrebbe organizzare una festicciola con gente che si veste come la Boccassini o da infermiera no, o da poliziotto, cioè, non pensavo, no? Dico, guarda te, cioè, ci sono persone che hanno la forza, io devo dire... E anche il denaro? Loro, che riescono a superare il problema, bisogna avere anche la forza per ottenere sì. Il denaro, cioè se non sei intelligente o furbo o bravo, alla vabbè, fine dunque, non hai neanche quello. Io non ho capito se lei invidia Berlusconi per questo oppure no. Ma sì, perché dico, guarda, anche nelle situazioni più incredibili lui riesce ad ironizzare, io tutto il giorno ero di buon umore, immaginavo questa scena, no? Sta signora vestita da Boccassini con i capelli rossi oppure Obama. Ma perché ci sarà perché uno si dovrebbe divertire a vedere una ragazza vestita da Boccassini? Qual è la perversione secondo te, Parenzo? David? Ehi. No, scusa, se siamo in trasmissione, perdonami. Ma non mi volevo sovrapporre perché no, sennò no, mi ma, dici che no, mi ma perdonami, hai capito quello che ti ho chiesto? Se no mi sovrappongo. No, ma uno ascolta almeno, no? Hai capito quello che ti ho chiesto o no? Come no, la signora sta parlando di queste strepitose feste di benissimo, alcol ma hai capito quello che ti ho chiesto, sì o no? Ti ho chiesto no, una cosa, non stavi ascoltando? Come non stavo ascoltando? Ma che roba è, a scuola? Vabbè. Siamo italiani, sulle mani, che ci possono soltanto che invidiare. Noi siamo quelli che prendono i pugni ma tanto non cadono. E combattiamo perché ognuno il suo dolore ce l'ha. Un grande ritorno alla Zanzara, Giuseppe Povia, caro amico, come stai? Come state voi due? Combattiamo. Parenzo, il tuo amico Povia? Beh, il grandissimo Luca era gay, ma adesso sta con lei. Ma tu ti ricordi solo quello, perché tanto... No, anche i bambini fanno... Ma sai che dovremmo inventarci qualcosa sulla politica, sulle strofe dei... I bambini fanno... Giuseppe, capito? Ma sì, ma tanto alla fine. No, ma ci dobbiamo inventare. Ci dobbiamo inventare qualcosa. Sulle note tutti i bambini fanno qualcosa sulla politica. Beh, poi parliamo. Proviamoci, ma siete sempre impegnati? No, che impegnati? Ma potrebbe anche essere su Berlusconi, no? Potrebbe essere. Ma perché per forza su Berlusconi? Non la sei fissato? No, sarebbe stupendo, ad esempio. Berlusconi era gay, ma adesso sta con lei, però su quello non ci piove. Berlusconi mi sa che è tutto tranne che gay. Ma infatti, esatto. Ma perché te, potrebbe declinare? Perché te la sei presa col ministro Chiang su Twitter, non so dove, è scritto che finiremo in mano ai cinesi, l'Italia deve essere gestita dagli italiani. Parenzo, beccate questa. No, vabbè, praticamente mi è arrivata una domanda da un sostenitore dicendo cosa ne pensi del fatto che sia stata eletta a Ministero dell'Integrazione, la Cécile Kyenge, sì. E io ho risposto come dovrebbe come risponderebbe secondo me il 99% degli italiani, perché cioè, che quel posto aspetta gli italiani. Il 1% restante ha soltanto paura del terrorismo psicologico che gli viene fatto dalle campagne pseudo antirazziste. Ho scritto che l'Italia dovrebbe essere gestita da italiani sia di fatto che di origine. Poi ho avuto la conferma perché ho saputo che il ministro Chienci intanto ha dichiarato che non si sente né italiana né del Congo. E poi alla fine, perché secondo me è giusto. Cioè, non ho capito, ma guarda che è italiana però la signora Chienci, Di fatto, ma non di origine. Cioè, se lei è laureata in medicina, sì, chirurgia e in oculistica, quindi il governo, se voleva fare una mossa giusta, poteva mettere al Ministero della Sanità e non metterci una che magari c'ha solo il liceo classico, capisci? Invece hanno fatto una mossa di consenso perché si volevano accaparrare tutti quelli ben pensanti, alternativi, della sinistra bene. Però scusami, Povia, ma perché tu dici ha solo il liceo classico? Perché al Ministero della Sanità non c'è una che c'ha solo il liceo classico. Ah, come Ministro della Sanità, sì, tu ma dici quella. Potevano metterci la Cécile Kyenge, che invece è laureata in oculistica. Però se tu dici che comunque l'Italia deve essere gestita dagli italiani, manco quello deve fare però, manco il Ministro della Sanità. Certo, però se il governo voleva fare una mossa di consenso giusto, poteva metterla lì. Poi sai, una che alza un cartello con scritto la clandestinità non è un reato, a me se io fossi tipo un extracomunitario mi arriverebbe come venite, che ci sono casa, lavoro e diritti per tutti. Cioè, io lo so che il PIL lo portano avanti gli extracomunitari, il 6% del PIL lo portano avanti loro, ma perché il governo non alza il costo del lavoro a favore degli imprenditori e chiaramente sottopaga e sfrutta tutti gli extracomunitari che fanno i lavori, diciamo, quelli che noi non facciamo più. Ma vorrei chiarire anche questa cosa: se un lavapiatti, cioè, se lo stipendio di un lavapiatti fosse di 1300 euro al mese, secondo me fuori dagli ristoranti ci sarebbe la fila di italiani, altro che extracomunitari. Scusa un attimo, ma secondo te la priorità del lavoro deve essere per gli italiani? Cioè quelli come la Chienge per esempio dovrebbero passare in seconda fila? No, ma io non sto parlando di lei, guarda, io ce l'ho col governo, cioè, sì, no, ma lo so, comunque, lo so, però sì, la priorità va agli italiani di sicuro, cioè, poi per cui lei come medico di espressione, poi se uno si esprime lo tacciano come no, ma io non lo so, non ti sto dicendo no, nulla. Un medico, scusami Povia, un medico secondo lei toglie il posto a un medico italiano come oculista? No, assolutamente, cioè se uno è vissuto in Italia ed è stato adottato, adesso io non lo so, non la conosco la storia. No, è entrata come italiano, clandestina. La cittadinanza italiana. Poi è diventata italiana perché ha sposato un italiano. Io so tutto, sono preparato, grazie. Lo so che ha la cittadinanza italiana, non leva il lavoro a nessuno, però dal momento che una viene messa al Ministero dell'Integrazione e alza un cartello con scritto la clandestinità non è reato, io penso che se è laureata in oculistica forse andava meglio messa al Ministro della Sanità. Ma perché tu dici finiremo in mano ai cinesi? Ma scusa, perché cioè non sono i cinesi che ne hanno colpa, perché i cinesi arrivano in Italia, tutto gli viene, cioè l'Italia, diciamo, deve essere gestita dagli italiani. Assolutamente, cioè i cinesi ci hanno già più anche o meno di origine tutto, italiani anche di origine. Anche di origine, poi i cinesi hanno in mano tutto, cioè si sa che si aprono le cose dovunque. C'è uno nato in Congo, secondo te non può diventare ministro? Certo che può diventare ministro, però se lo mette in integrazione fai una mossa sporca, almeno a me è arrivata così, ma secondo me arriva così al 99% degli italiani. Anzi, perché voglio dire, una cittadina è l'esempio massimo di come una persona che diventa cittadino italiano pur venendo da un altro paese è un segnale straordinario per l'integrazione, invece è esattamente il contrario. Siccome è un cittadino italiano, ma non gli piace. È che non mi piace la mossa che ha fatto il governo, perché il segnale di integrazione ci potrebbe essere se tutti gli italiani stessero bene, ma siccome scusami, se voi guardate Povia, le statistiche, che una famiglia su 24 non arriva Povia a fine mese, siamo al 24%, tra 10 anni al 48% ci arrivano le famiglie italiane. italiane che non arrivano alla fine del mese, cioè questo è un dato di fatto. Cioè, non è prima che gli italiani, questa è prima gli italiani. Ma ve lo deve dire un cantante. Scusa, Parenzo, prima gli italiani. Io capisco che tu vuoi fare l'antirazzista e tutto il resto, però stai facendo discorsi secondo me un po' banali, un po' scontati, oramai sono passati di moda. Cioè, gli italiani non arrivano a fine mese davvero, eh. Ma scusami, l'ex sindaco di New York è di origine italiana. Se la sua famiglia non fosse stata naturalizzata americana, sì. Eh? Giuliani, sì. No. Voglio dire, il modello massimo di integrazione è quello degli Stati Uniti, che è una terra di migranti, cioè, ma di che stiamo parlando? Non è vero, sai, cioè, hai ragione, però non è vero secondo me, perché milioni di italiani tanti anni fa migrarono all'estero in cerca di fortuna per altri motivi, naturalmente si parlava del dopoguerra. Dobbiamo augurarci che altri milioni di italiani se ne vadano via? Io non voglio, sinceramente. No, cioè, mi stanno facendo passare la voglia anche a me di vivere in Italia, ma io non sono d'accordo neanche con la IDEM, cioè che sia stata messa la IDEM. Cioè, secondo me l'Italia dovrebbe essere gestita dagli italiani sia di fatto che di origine, perché... Ma è per questo che hai fatto Siamo Italiani Tour 2013? Ma quando inizia sto tour? Ora sono in Calabria, domani sono a Sartano di Torano Castello, che siamo in provincia di Cosenza, comunque facciamo un sacco Quindi di concerti. Farà incazzare un sacco di gente con queste cose, dopo i gay adesso gli immigrati, ti massacreranno. Però vedi, anche . Con i gay, io non ce l'avevo con i gay, ce l'avevo con le associazioni che difendono i gay, che li mettono sui carri tutti nudi ai Gay Pride e fanno indignare i gay stessi, perché io se fossi Vabbè, gay uno ci va di sua spontanea uno ci va di sua spontanea volontà sui carri, non è che viene trasportato stile nazisti, insomma. Sì, però in televisione, i media riprendono quello e la gente pensa che i gay siano così. I gay che conosco io non sono così, tutti nudi travestiti qui sui carri, e un gay che mi sta ascoltando in questo momento mi dà ragione. Sì, però ognuno fa quello che vuole della propria omosessualità, la puoi esporre. Ma sei bello, Cruciani, tu c'hai una voce, io ti ascolto sempre. Anche Parenzo, mi piace contraddirlo, perché è una persona altolocata e intellettuale, capito? Fatemi risentire questa canzone sugli italiani, che però mi hanno detto che ai nostri assistenti non piaceva molto, invece non è male, eh? Siamo italiani sulle mani che ci possono soltanto che invidiare. Noi siamo quelli che prendono i pugni ma tanto non cadono. Com'è che fa? Ma tanto non cadono. Mi piace questo cadere. Fammela tu, Giuseppe. Ma tanto. Noi siamo quelli che prendono i pugni ma tanto non cadono. E combattiamo perché ognuno il suo dolore ce l'ha, ma superiamo. Perché la forza ce l'abbiamo nel DNA. Ti posso dire un'ultima cosa? Però Giuseppe, devi avere la forza di dire devi andare fino in fondo. Torni in Congo, la signora Chieng. Dillo se lo pensi, dillo. No, lo penso, se no lo direi, guarda, davvero, proprio parli con uno che non ha peli. Però vada via dal ministero. Io la metterei forse magari al ministro della sanità, se vogliono fare una mossa di integrazione. Ma se dici che deve essere gestita l'Italia, deve essere gestita dagli italiani. Quello prima di tutto, ma se vogliono fare una mossa di integrazione vera, cioè se la vogliono almeno fare bella, almeno in un ministero dove è competente, ti dici. Appunto, perché è laureata in oculistica. Dimmi, che mi volevi dire per concludere? Che mi volevi dire? Volevo dirti che questa canzone qua è stata un po' etichettata come populista, ma io vorrei spiegare il significato di populismo sul vocabolario, cioè ogni movimento politico e sociale che tende in qualche modo ad elevare le classi più povere, quindi il populismo è positivo, non è negativo. Vabbè, dipende anche. Diciamoglielo a questi comunisti con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Parenzo, il formaggiaio, ciao Giuseppe. Allora, in esclusiva il titolo de Il Giornale domani mattina dal direttore Sallusti. È collegato con noi il direttore Sallusti? Sì? Sì, eccomi, buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Mi faccia il titolo del giornale domani mattina. Ok, il titolo del giornale, che poi è dell'intraprendente, è Storia di Ruby prima che diventasse l'arma spuntata contro il CAV. Ma com'è? È troppo complesso per essere il titolo del giornale, Sallusti. Hai ragione, ma infatti mi sto involvendo, assomiglio a Ferrara. Deve essere Ruby, com'è il titolo, il vero titolo, Sallusti Parenzo, come sarebbe domani il vero titolo del giornale? Ma guardi, di apertura è ovviamente sono tutti un branco di froci, però diamo una notizia. Il resto è semplicemente Ruby è una ragazza, lavora in convento, questo. Ma è non ha detto questo Ruby oggi nella cosa, il titolo su Ruby domani del giornale qual è? Ancora non l'ha deciso, Sallusti, possibile mai? Sto tentennando perché Io in realtà non parlerei neanche dell'argomento, cioè discuto che sia la priorità. Ah no, io l'ho capito quale potrebbe essere il titolo. IMU, trionfo di Berlusconi, giusto? Parenzo Sallusti, certo. Come potrebbe essere? Beh, certo. IMU, grande, io metterei un attimo grande vittoria di Berlusconi. Lei è sempre un comunista di merda come al solito, quindi riduce tutte. IMU, virgola, grande vittoria di Berlusconi. Ma non è un titolo, è troppo lungo. No, abbiamo allargato, abbiamo chiamato la tipografia, fatto allargare apposta del giornale per fare un 6x4 enorme, per fare proprio una locandina. E poi ovviamente c'è la notizia di taglio basso. Di sì, importante. Quale sarebbe? Pisapia ladro, abbiamo ma le prove. Ma che c'entra? Che non ha pagato, sì, non ha ritirato lo scontrino al caffè, quindi un ladro. Pisapia va ladro. Bene, la voce che avete sentito prima è di Giovanni Sallusti, direttore dell'Intraprendente, nonché... che è nipote lei, Sallusti? Nipote, sì. Nipote, sì, cioè lei nipote. È figlio di... No, figlio del fratello, almeno. Figlio così del fratello, così risulta. Perché c'è pure un fratello di Sallusti, che fa nella vita? Ebbene suo sì, padre. Il chirurgo d'urgenza, fa un mestiere serio, diciamo. Ma lei ha la R moscia, ma avete tutti la R moscia in famiglia? Sì, è una tara familiare, è una tara familiare. Ah, cosa pazzesca. Scusi, però io vorrei dirimere con lei una questione, prima di affrontarne altre. Ma la Santanchè, che lei conosce, immagino, no? Assolutamente, sì. Frequenta casa Santanchè in via vicino Corso Vercelli a Milano, quella bellissima casa? Mi è capitato. Le è capitato, benissimo. Ma è davvero lesbica, come ha riferito ieri durante la trasmissione Servizio Pubblico? Ma io posso dirle che la Santanchè la definirei una donna con le palle, questo sicuramente. Che da qui ci sia necessariamente un collegamento col fatto che sia lesbica, non glielo so dire. Lei l'ha detto perché dice che mantiene due donne, sì, no? L'ha detto, esatto. Ovviamente in maniera provocatoria. Peraltro non... La cosa mi ha fatto un po' risentire, perché potrebbe anche mantenere me, insomma, per vicinanza familiare. Ah, beh, certo, a questo punto. Ma lei un padre ce l'ha, scusi. Scusi, quanto guadagna lei da direttore dell'Intraprendente? Che stipendio ha, signor Sallusti? Penso che sia inferiore a quello di un redattore ordinario del giornale, per capirci. Addirittura? Ma è un giornale fondato da suo zio e dalla signora Santanchè, se non sbaglio? No, fondato da me, c'è una casa. Vabbè, editrice. I soldi chi l'ha messi? Anche, non solo, ma anche mio zio. Dunque, indirettamente lei viene pagato anche da loro. Quanto prende? Che ne so, 2000 euro, quanto prende? No, scenda. Meno di 2000 euro? Vabbè, ma è una cosa. Ma perché non viene, perché non si fa assumere direttamente al giornale? Questa è una bella domanda, però in realtà è uno dei motivi per cui ce l'ho con mio zio, riguarda il giornale, è un argomento che voi potete capire molto bene, secondo me, cioè Vittorio Sgarbi. Cioè? È perché io ho lavorato anche al giornale 6 mesi. Sì, mi occupavo dell'inserto culturale di Sgarbi, che è stata un'esperienza estrema, cioè se io mi immagino la guerra in Vietnam mi raffiguro una cosa del genere. Ma perché? Scusi, che è successo? No, era un inserto settimanale, no? Che usciva la domenica. E come no, lo ricordo bene, sì, sì. I tesori dell'arte italiana, quindi uno pensa, hai una settimana per metterlo insieme, è un lavoro invece... proprio con la mano sinistra. No, invece il problema è che Sgarbi mandava i primi pezzi alle 17 del sabato, le bozze alle 17 Vabbè, del sabato. Vabbè, ma lei se mi chiamava io le dicevo tutto prima, che era una follia questa cosa. Tra l'altro con i suoi autori non concorda, che è diverso da quelli concordati, e quindi lei capisce che un conto è trovare al volo una foto di un'opera. Senta, ma suo zio è un bravo giornalista secondo lei oppure no? Assolutamente sì, certo. Cioè, che voto darebbe da 1 a 10 a Sallusti come giornalista? A Sallusti come giornalista darei 11, non ma, quanto. Vabbè, ma è troppo. Ma chi è più bravo, 11. Sallusti o Feltri? Direi Sallusti, perché non posso dire altrimenti. Ah, ecco. Vabbè, guardi, lo invito la settimana prossima che duettiamo con qualche ospite. Un abbraccio, molto grazie Giovanni. Le faccio un titolo più sintetico, IMU, trionfo di Berlusconi, questo è il titolo del giornale domani, vero Parenzo? Pisapia è un ladro, abbiamo le prove, ha preso un caffè in Duomo e non ha ritirato lo scontrino. A lunedì 18:30 la Zanzara, lottiamo, siamo qui. Parenzo dimostra continuamente di essere diversamente intelligente e in quanto tale non si può dargli addosso ogni sera così. Hai un tuo modo, vivi in un tuo mondo di gay frustrato comunista. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Venga, che ormai è tutto finito.